Italia in controluce. Si apre una nuova settimana di Italia in controluce, in studio Daniele Biacchesi per quest'oggi 16 luglio. Democrazia partecipata, la nuova frontiera della politica, dell'amministrazione e della cosa pubblica, significa compiere scelte importanti in tema, ad esempio, di appalti, con la spinta, la partecipazione attiva della gente comune, di quella che troppo spesso viene definita erroneamente società civile. L'esperienza diventa governo a Genova con la nuova amministrazione a guida Doria, il reportage di Valeria De Rosa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della comunità per il bene pubblico. Nelle prime poche parole di fronte al Consiglio c'è tutto il pensiero del sindaco Doria. Nell'interesse della comunità, dice il primo cittadino, per il bene pubblico. Appena eletto, Marco Doria ha recuperato le parole di chi gli chiedeva di non pronunciare la solita banalità sull'essere il sindaco di tutti. E così lui ha detto apertamente che no, non potrà essere il sindaco di tutti i genovesi, ma sarà aperto al dialogo continuo con tutti i cittadini su tutte le questioni che si intrecciano con la vita della città. Anche per questo degli strumenti per tradurre in sostanza la democrazia partecipativa se ne occuperà personalmente. Genova non parte da zero, visto il dibattito pubblico sul potenziamento autostradale, la cosiddetta Gronda, un'esperienza quasi pionieristica, così la descrive Umberto Allegretti, docente di diritto pubblico all'Università di Firenze. Direi che è un caso molto interessante che riguarda il tipo di democrazia partecipativa che avviene sulle grandi opere. Poi ci sono altri esempi, per esempio di bilanci partecipativi in Italia di notevole interesse, ma per quanto riguarda il settore delle grandi opere, indubbiamente il caso di Genova è, anzi a mia conoscenza, è quasi l'unico esistente. E il sindaco come la vede la discussione sulla Gronda e cosa intende farne? Si è trattato di un'esperienza indubbiamente interessante e importante e al tempo stesso con alcuni limiti oggettivi, perché la discussione verteva su diversi possibili tracciati di un'arteria autostradale e non contemplava la possibilità di sottoporre ai cittadini il quesito: è necessaria l'opera oppure no? Naturalmente noi, come strumenti di democrazia partecipativa, abbiamo da proseguire e migliorare sicuramente l'esperienza dei dibattiti pubblici su opere, e poi abbiamo da pensare, secondo me, a una pluralità di strumenti che sono intanto anche legati a un funzionamento sempre migliore del decentramento comunale, i cosiddetti municipi come luoghi che consentano proprio le contatto con i cittadini, e poi forme dirette dal comune, di coinvolgimento nella fase anche di idee, esempio, gestione di spazi pubblici verdi, di piazze. Il vero banco di prova però è forse la partecipazione al bilancio. Il sindaco Doria lo sa e, nonostante le difficoltà oggettive, sta già pensando al come. Per essere molto seri e onesti, non esistono oggettivamente per quest'anno degli spazi esisteranno tutti gli spazi per una discussione democratica in consiglio comunale e nelle commissioni consigliari, ci mancherebbe altro, ma non esistono proprio i tempi per immaginare una riflessione che coinvolga migliaia e migliaia di cittadini sul bilancio comunale. Il tema bilancio partecipato, secondo me, va pensata a partire dall'anno prossimo, subito dopo questo passaggio obbligato che deve essere fatto in tempi contingentati, obbligatoriamente contingentati. Ho fatto una riflessione su come rendere partecipi i cittadini dei problemi finanziari del comune. Democrazia partecipata o partecipativa, un punto fondamentale e irrinunciabile della campagna del professor Doria. Uno strumento affascinante, di non facile e veloce attuazione, come spiega Umberto Allegretti. Bisogna andare per gradi, cioè per sperimentazioni. Ora, in Italia alcune sperimentazioni di bilanci partecipativi interessanti ci sono state, per esempio in Toscana Arezzo è il caso forse più interessante. Arezzo e Massa Quindi diciamo che siamo ancora in una fase di inizio e di crescita. A mio parere gli esempi esistenti attestano che se c'è una lucidità politica, come dire, si possono fare queste cose e possono crescere e a un certo punto generalizzarsi, ma direi che non bisogna aspettarsi una generalizzazione immediata. Ma torniamo a Genova, perché considerate le premesse e le prime mosse, è possibile che questa giunta faccia parlare di sé. Oltre la metà sono donne, 6 su 11, e solo 4 assessori sono politici. Il sindaco dice di averli scelti sulla base di criteri stringenti, come la competenza e la correttezza, con una particolare attenzione alla componente femminile, e i numeri lo dimostrano, e consapevole del difficile momento economico. C'è sempre una componente in questo, un po' se vogliamo umana, di scommessa sul futuro, cioè, questo vale anche per me, cioè, pensate un attimo, una persona che assume in un momento come questo, difficile, obiettivamente, un incarico complesso, è chiaro che si mette alla prova. Io mi sento messo alla prova, ovviamente, e penso che gli 11 assessori si sentiranno anch'essi messi alla prova, lo sono obiettivamente. Vedremo, i voti ce li daranno gli altri. I voti ce li daranno gli altri, che osa il primo cittadino. Ma cosa si trova ad affrontare oggi Genova? Le difficoltà oggettive sono quelle del paese, le difficoltà oggettive sono quelle di tutti i grandi comuni italiani che hanno pochissime risorse e che devono rispondere a domande crescenti da parte dei cittadini, soprattutto a causa della crisi che il paese sta attraversando. Quindi queste sono le priorità che non distinguono in questo, nella sostanza, Genova da tanti altri grandi comuni italiani. Nello specifico Genova è una città che, per ragioni anche esterne da un punto di vista economico, è ripiegata su se stessa, quindi un impegno, anche un po' di prospettiva per il mandato, per il ciclo amministrativo, sarà quello di aiutare, per quello che è di competenza del comune, l'economia cittadina, il sistema delle imprese cittadine, per cui io ho già avviato, pur essendo insediato da pochi giorni, dei contatti proficui sia con Confindustria Genova che con imprenditori del settore marittimo portuale, ad esempio. Fincantieri, ma anche le aziende del gruppo Finmeccanica. Io ritengo che questi stabilimenti, queste fabbriche, devono essere considerati un bene comune, un patrimonio della città, ma soprattutto del paese. E che bisogna avere, nel caso anche e soprattutto, trattandosi, a parte Fincantieri, le imprese del gruppo Finmeccanica, di imprese che hanno dei bilanci che chiudono in attivo, ecco, devono essere considerate assets importanti per il paese, e bisogna stare molto attenti quando si ipotizzano prospettive di cessioni per incassare denari che magari servono a tappare buchi di bilancio di altre aziende. Un'ultima nota di cronaca. Come ogni nuova giunta che si rispetti, anche quella che fa capo a Marco Doria ha avuto la sua prima polemica. Alcuni quotidiani hanno scritto che il neo assessore al personale, Isabella Lanzone, non aveva intenzione di lasciare il suo incarico come dirigente pubblico. Sarà stata anche la poca dimestichezza con i media? La Lanzone ci ha messo un po' per ribattere. E non si può dire che la chiarezza sia il punto di forza della nota dell'assessore, un dono che invece al sindaco Doria non manca. L'assessore in questione è l'assessore al personale che aveva attualmente un incarico ad Udine. L'incarico a Udine viene lasciato, assolutamente, quindi non è un assessore che si divide tra Genova e Udine. Essendo però un dipendente pubblico, non perde il posto di lavoro, ma non svolge delle funzioni fuori dalla città e non svolge funzioni che non siano rigorosamente compatibili con un impegno che deve essere assorbente, deve essere svolto nel migliore dei modi, che è quello di assessore del Comune di Genova. E di questo io sono in grado di garantire i cittadini, B, che sono controllore severissimo su quello che faranno gli assessori della mia giunta. Era Italia in Controluce, torniamo domani sempre alle 13.30 su Radio 24 con un nuovo reportage, questa volta sulle nuove amministrazioni pubbliche in Piemonte, firmato da Maria Luisa Pezzali.